Aqui a tribo seria distribuída de escolha o sucesso e para o modo ad primo milita botgelis e nevogelito e si tradiveram de guida marco bruto e ruente di xisse caesi un Nelle sue Metamorfosi, Ovidio narra il mito di Eco e Narciso. La ninfa Eco si innamorò del bellissimo e vanitoso Narciso, senza però esserne ricambiata. E soffrì così tanto da tramutarsi in pietra, finché di lei rimase solo la voce. Magra consolazione, visto che non era in grado di parlare per prima. Per punire la sua loquacità, infatti, la dea Giunone le aveva scagliato addosso una maledizione, condannandola a ripetere in eterno le ultime parole degli altri. Con questa favola i greci spiegavano il fenomeno acustico dell'eco. In realtà il progetto Ecos, in cui fu inserito subito dopo l'assunzione alla Cliomedia, dovette il suo nome all'acronimo di un principio fisico, quello dell'eterna conservazione delle onde sonore. Ecos, appunto. Nulla di astruso fantascientifico. Tutti conosciamo la legge dell'eterna conservazione dell'energia. In natura nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ebbene, a partire da questa formulazione generica, il gruppo creato da Corvero aveva inaugurato un filone di ricerca rimasto fino ad allora quasi inesplorato. Quando Corvero mi presentò ai miei colleghi, il team esisteva già da 3 mesi. Il progetto era nato per precisa volontà del presidente, tuttavia nessun altro della Cliomedia, fuorché lui e i ricercatori coinvolti, era al corrente della sua esistenza. Si trattava di una ricerca della massima segretezza e tutti gli studiosi coinvolti, all'incirca una decina, erano tenuti al massimo riservo. Riuscimmo a tenere segreto il progetto, o così credevamo allora, per un anno, da maggio 2006 a giugno 2007. Ma poi la verità trapelò e... beh, le cose si misero male, ma adesso è inutile anticipare. Come dicevo, l'unità operava sotto copertura e quando necessario veniva spacciata per la costola di un progetto del tutto diverso, ma quasi altrettanto ambizioso. La produzione di una serie di documentari che avrebbero ricostruito l'intera storia dell'antica Roma. Così l'obiettivo dell'Ecos, ufficialmente, era quello di mappare e riprodurre in 3D, con l'ausilio della computer grafica, tutti gli stadi architettonici della città. Corvero aveva proprio pensato a tutto. O quasi. Ricevetti tutte queste informazioni e molte altre quando Corvero mi presentò al team. Ricordo ancora le espressioni incuriosite e un po' compassionevoli con cui mi accolsero. Probabilmente si domandavano se avrei retto allo stress dell'enormità che di lì a poco avrei ascoltato. Fu dura, in effetti, e dura rimase per almeno un mese. Una volta entrati in confidenza, del resto, qualcuno mi avrebbe poi confidato di aver vissuto lo stesso shock. Quella prima riunione durò circa un paio d'ore e mi sconvolse. Più volte ebbi la tentazione di mandarli tutti al diavolo e di correre via, eppure sentivo che era esattamente quello che ci si aspettava da me. Quell'approccio violento era deliberato, era una prova, immaginai. Così mi imposi di dissimulare la mia incredulità e di conservare tutto l'aplomb di cui ero capace. Forse se fossi stato uno scienziato, ad esempio un fisico come Francesca, mi sarebbe stato più semplice accettare quelle idee assolutamente rivoluzionarie che stravolgevano la concezione comunemente condivisa del tempo e dell'universo. Da qualche dettaglio scientifico raccolto qua e là, a me familiare o comprensibile, avrei potuto valutare con un minimo di competenza la plausibilità di quelle nozioni e, nel caso, convertire e rimodellare rapidamente i miei schemi logici. Ma sono uno storico, accidenti a me, cresciuto e formatosi con l'idea che la linea del tempo sia un percorso a senso unico, un fiume non risalibile. Insomma, tutto mi parve maledettamente pazzesco. Una parte di me voleva gridare che erano matti, che si erano bevuti il cervello, che era tutto uno stupido scherzo. Eppure la loro serietà, la loro disinvoltura, la loro sicurezza mi confondevano, inquietandomi a morte. Anzi, posso dire che la prima volta che sentii parlare del paleofono mi si rizzarono i capelli sulla nuca. Eppure posso ben dire di aver fatto mia la poetica suspension of disbelief, la sospensione dell'incredulità teorizzata da Coleridge. Sarà anche banale, ma nei miei 29 anni di vita ho sempre nutrito la convinzione che quando sei in ballo non resta che ballare. Non ho mai tollerato l'idea di tirarmi indietro, neppure quando forse era giunto il momento di farlo. E così, proprio come avevo fatto con Corvero al momento di firmare il contratto, volli dare credito a quelle persone e andare fino in fondo. Certamente se non l'avessi fatto, oggi la mia vita sarebbe molto diversa e probabilmente migliore. Ma non ho rimpianti, e comunque non tutto è perduto. Non ancora. Eravamo una grande squadra. Quando entrai l'unità contava 10 persone, ma 2 in particolare ne erano l'anima. Francesca Dossani, fisico, ed Enrico Valera, ingegnere acustico. Francesca, coadiuvata da Corvero, era la responsabile del progetto. Una donna geniale. E mediante le sue intuizioni e istruzioni, coordinando un manipolo di scienziati e tecnici di varia estrazione, Enrico costruì il paleofono. Quanto a me, la mia consulenza di storico si rivelò sì necessaria, ma in modo discontinuo, cosicché dedicai sempre buona parte del mio tempo al progetto di copertura. All'ECOS questo mi guadagnò il soprannome di Quanto, ironia da scienziati. Che dire di quei primi 6 mesi di contratto? Volarono. Intanto imparavo a conoscere poco a poco i miei colleghi speciali. Prima nacque la stima, poi la fiducia, quindi una affiatata amicizia. ECOS divenne una parte di me e non lo lasciai più. Kai Sundegan.